Allora, io prima di tutto ringrazio i ragazzi del Folletto per l'iniziativa, per averci invitato, e adesso quando Paolo ha detto i nostri nomi, mio, Nicolò e quello di Gabriele, mi ha fatto un po' ricordare così il mio passato, all'esperienza che tutti e tre abbiamo avuto universitaria. Siamo degli agricoltori forse un po' anomali, no? Rispetto alla media degli agricoltori che ci sono nella zona. Però credo che tutti abbiamo con difficoltà portato avanti le nostre aziende, e forse ci è stato chiesto di raccontare un po' il nostro vissuto per dare un esempio, no? Di quello che in questi anni abbiamo fatto. Io leggerò perché non sono abituata a parlare in questi ambiti. Allora, parlare del proprio vissuto e legare la propria esperienza al territorio induce a riflettere sulle scelte fatte in un ambito lavorativo, ma anche e soprattutto familiare. Io credo che il ruolo della donna in agricoltura sia stato ed è fondamentale. A volte rimangono in secondo piano, seguono senza troppo entusiasmo le scelte fatte dagli uomini, ma più spesso sono il vero motore dell'azienda, perché sono innovative e disposte ad aumentare il carico di lavoro per far quadrare i bilanci, soprattutto nelle aziende di più piccole dimensioni. Il legame con la terra crea dei vincoli, ma dà un senso al trascorrere del tempo, all'alternarsi delle stagioni, al vivere con ritmi più naturali che facilitano i rapporti con i figli. Per un bambino crescere quotidianamente con la presenza di entrambi i genitori oggi è forse un privilegio, quasi quanto quello di assistere o di poter in parte partecipare ai lavori che si svolgono in azienda. Lo vediamo, penso tutti, quando i ragazzi delle scuole vengono da noi, no? Purtroppo tantissimi non sono abituati, non conoscono gli animali. In campagna è più facile l'accoglienza. All'ultimo momento riesci sempre a improvvisare un pranzo o una cena. E con i miei figli io credo di aver realizzato il sogno che avevo da ragazza, di condividere le amicizie tra generazioni diverse. La mia scelta lavorativa l'ho fatta con Dario tanti anni fa, dopo esserci incontrati all'Università di Agraria. L'università è una tappa importante della vita, e io lo consiglierei anche a chi non è sicuro di riuscire poi a portarla a termine, perché è l'incontro con un ambiente culturale che ogni ragazzo a 18 anni può finalmente permettersi di scegliere in autonomia. Per me, nata in città, ha significato tantissimo. Terreno di studio, ma anche di lotte e confronti politici, mi ha avvicinato al mondo agricolo attraverso un'esperienza della tesi di gruppo nel territorio, che noi studenti avevamo ottenuto e fortemente voluto per avvicinare il mondo studentesco a quello del lavoro. Dalla realizzazione di queste tesi di gruppo, la nostra in Val di Scalvi, in ambiente montano, sono nate alcune esperienze cooperative, ancora oggi in corso, San Colombano, la Val Staffora, altre individuali come quella della mia famiglia. Io non ho scelto il territorio perché ho avuto la fortuna di iniziare a condurre un'azienda familiare, e da qui siamo partiti costruendo la stalla per le vacche da latte e l'attrezzatura necessaria. Come donna è stato duro ottenere le varie qualifiche, più che imparare il lavoro, l'attestazione di poterlo fare. Da laureata mio padre auspicava che mi attenesse a un lavoro dirigenziale, ma era proprio quello che io non volevo, e così ho imparato pian piano tutti quei gesti che ogni figlio di contadino acquisisce in modo naturale crescendo. Negli anni Ottanta non era poi così strano che alcuni giovani rielaborassero il desiderio di ritornare a lavorare la terra. Gli amici che conoscevamo allora e che hanno fatto questa scelta sono ancora lì, qualcuno in Toscana, altri più vicino. Da che mi ricordo, nessuno è tornato indietro. Allevare vacche da latte è una passione, chi non l'ha mai fatto non può capirlo. A volte mi fa sentire un po' diversa, sembra strano nel 2000 essere qui ancora a mungere le mucche. Eppure c'è gente che continua a farla in condizioni molto più difficili delle nostre. E a questo proposito vorrei citare delle esperienze trovate in un libro molto bello che io ho letto, il libro di Mercalli, Le mucche non mangiano cemento. E ho trovato testimonianze di Margare della Valsusa, storie di vita che attestano legami storici con la terra, con gli animali, con la bellezza e la solitudine degli alpeggi. Tutto si condensa in un unico prodotto, un alimento che rimane prezioso, il latte. L'azienda zootecnica occupa manodopera e mantiene la fertilità del terreno, ma soprattutto contribuisce a conservare il paesaggio agrario e a contenere l'aggressione al territorio. L'attenzione per i problemi ambientali è andata man mano crescendo in me negli ultimi anni. Mungendo le mucche, operazione manuale, che del resto lascia alla mente una grossa libertà di operare, lavorando i campi, Ho spesso provato, come dire, un po' il rimpianto di non aver scelto di svolgere un lavoro più socialmente utile. Il rapporto con gli animali è una grossa fonte di gratificazione, così come per tanti che lo possono ancora fare, coltivare un orto può essere fonte di distensione e di soddisfazione nel fornire degli alimenti sicuri per la tua famiglia. Ma insegnare, educare, curare i malati, questi a volte mi sembravano mestieri più significativi. Fino a quando, vedendo crescere gru come funghi, capannoni, centri commerciali, villetti a schiere, infrastrutture che si dicono essenziali per la crescita economica, reti di plastica arancione che all'improvviso cintano una mattina un nuovo campo, ho capito che fare l'agricoltore oggi più che mai può servire non solo a produrre beni primari, ma tutelare e conservare il paesaggio agrario. I ragazzi del Folletto stanno compiendo un lavoro enorme, cogliendo le contraddizioni negli ambiti più deboli e dimenticati, le carceri, le comunità di recupero, il mondo della droga. Vogliono suggerirci modelli di sviluppo che non rincorrono i miti della crescita senza limiti. Ogni giorno i giornali e la televisione ci martellano sull'assoluta necessità di sostenere la crescita economica, sul pericolo della stagnazione e della recessione. L'economia può e deve solo crescere. Come dice Luca Mercalli nel suo bellissimo libro, nessuno mette mai in evidenza che questa affannosa esortazione alla crescita genera automaticamente una riduzione delle risorse naturali e un aumento dei rifiuti. A questo proposito citerei alcuni tra questi oggetti stravaganti che il mondo della produzione ci regala. Pedana footing magnetica con regolazione di sforzo su 8 livelli. Climber dotato di computer a 4 funzioni e stimolatore di gradini olio pneumatico per sviluppare la muscolatura delle gambe. Grattugia elettrica riciclabile, con autonomia, no, ricaricabile, con autonomia di oltre 100 piatti. Mantelline, questa è bellissima, mantelline coprispalle in polietilene, monouso per proteggere gli abiti dalla caduta dei capelli del parrucchiere. Portarotolo di carta igienica con radioapile. Elettrostimatore da viaggio a 4 elettrodi a pile. Leva pelucchi per tessuti, funziona a batteria. Deodorante elettronico, purificatore d'aria, funziona a batteria o con adattatore di rete. Sbucciamele da tavolo a manovella. Spazzolino da denti alimentato da pile. Macchina portatile per soffiare via le foglie secche dai viali. Automato da motore a scoppio. Non so se magari qualcuno è passato in città quando per pulire dalle foglie usano queste cose e non riesce a respirare dalla puzza che fanno. Erba di plastica allo stadio San Siro di Milano e vabbè. Poi ce n'è una marea. Basta, così finito. Io non credo che ci si debba rassegnare. La speculazione edilizia e la mancanza di progettualità territoriale stanno minando irrimediabilmente le campagne. Anche gli agricoltori meno sensibili si stanno accorgendo di ciò. Il problema è come coinvolgere gli organismi competenti e salvare il salvabile. Cose dette e ridette, ma forse dal mondo della cultura e dell'università può arrivare un sostegno e una progettualità condivisa. Unire le forze e tenere alto l'interesse sulla trasformazione che le grandi opere porteranno se e quando partiranno. Grazie a un riconoscimento speciale ai Folletti e per chiudere qualche riga dalla messa dell'uomo disarmato di Luisito Bianchi. Non è poco sapere impugnare il badile, come trattenere il lucido manico, quale inclinazione dare al filo tagliente che penetra nella terra. Bisogna in pochi gesti condensare una sapienza millenaria, trasmessa da padre in figlio per non rompere l'equilibrio del rapporto d'amore tra la terra e l'uomo.